Devastate, alienate, tuttavia i punti centrali, diciamo, più sofferenti nel carcere sono quelli definiti, non da noi, anche da noi, ma l'hanno detto organismi internazionali di grande stima e valore, sono il 41 bis, che è definito anche proprio vera e propria tortura, e il problema dei bambini e delle bambine appena nate dentro le carceri. Sono due punti che hanno che un po' rappresentano la devastazione della situazione, diciamo, del carcere italiano. Il problema, il 41 bis, adesso vedremo un po' di ripercorrerne la storia, viene tenuto in piedi con la motivazione che il 41 bis serve a combattere la mafia, la criminalità organizzata, quindi una carcere duro, viene chiamato volgarmente, un carcere duro non vuol dire niente, proprio per evitare di utilizzare questo termine ormai diffuso a livello internazionale, perché vedete come succede in questo paese un po' tragico, triste se volete, nel senso che questi organismi internazionali di cui dicevo prima, che hanno dichiarato che il 41 bis è vera e propria tortura, sono organismi che vengono per altre cose, per altre affermazioni che fanno, esaltati, per esempio quando sono Amnesty International, Human Rights Watch, gli organismi delle internazionali che fanno capo un po' alle Nazioni Unite, che osservano, una sorta di osservatorio sulle condizioni in cui le persone nei vari paesi, nei vari stati, vengono trattate dagli stati stessi perché appunto hanno fatto dei reati o altre cose, quindi nelle carceri, nei manicomi, situazioni di questo, anche l'eccessiva povertà, la devastazione di ambienti, eccetera. Queste, quando dicono qualcosa su paesi, su stati che sono non alleati dello Stato italiano, per esempio, allora vengono esaltati. Per esempio, quando dicono che non c'è rispetto dei diritti umani nella Corea del Nord, a Cuba, nei paesi non proprio alleati appunto dell'Italia, è chiaro che vengono esaltati. L'ha detto anche questo, quindi è vero, è incontestabile, incontrastabile l'affermazione che hanno fatto, bla bla bla. Quando poi invece dicono qualcosa sulla situazione, per esempio, delle carceri italiane, ma non solo delle carceri, è chiaro che si fa finta di non parlare. E allora c'è questa, come chiamarla, ipocrisia un po' meschina, miserabile, sembra quasi l'idea che viene, la rappresentazione, se sapessi disegnare la farei facilmente, ma non so disegnare, la rappresentazione di questa immagine del paese è che questi alti funzionari politici, un po' di tutte le specie, perché poi si sono avvicendati al governo e insomma, più o meno le stesse cose hanno fatto, fanno le stesse cose sui punti essenziali, poi le chiacchiere stanno favorire le imprese che stanno amiche di questo o le imprese amiche di quell'altro, ma sostanzialmente non è che c'è una diversità politica su scelte politiche di fondo, per esempio sul carcere, sui manicomi, su altre cose di questo tipo qua. Su questo sono tutti uguali, purtroppo, e questo è triste, anche è la tristezza. Per questo si dice che è finita la politica, perché non rappresenta più quella dialettica anche oppositiva, anche polemica, tra una scelta che dice alcune cose. Per esempio, prima, una volta c'era le sinistre, si battevano per lo sviluppo della dell'intervento pubblico nell'economia, quindi c'erano aziende pubbliche, aziende a partecipazioni pubbliche, oppure c'era appunto lo sviluppo del welfare, la scuola pubblica completamente gratuita, la sanità e così via, e invece la destra puntavano più al privato e così via. Queste erano un po' le due, e su ogni terreno si misuravano con dibattiti anche interessanti, e le persone potevano anche scegliere in base ai propri interessi, quindi qui si delineavano bene le appartenenze a gruppi sociali, a quelle che sono le classi, i ceti economici, economico-sociali, per difendere appunto il proprio interesse su una scelta politica oppure no. E quindi c'è, adesso no, su queste cose, sulle cose di fondo sono tutti per la privatizzazione, sono tutti per la distruzione del welfare, sono tutti per l'abbassamento dei salari reali, la forbice tra diciamo ricchi e poveri, per usare un termine un po' vecchio, un po' obsoleto, però per far capire, insomma, no? tra ceti rampanti, quelli che vanno avanti, e invece situazioni in difficoltà di vita, si allarga sempre più. Considerate, questo pure lo dicono organismi internazionali di statistica internazionale, dicono, per esempio l'OCSE dice che l'Organizzazione Mondiale diciamo, che valuta tutti gli andamenti economici, dice che la forbice, appunto, diciamo, tra ricchi e poveri si è allargata di molto negli ultimi 10 anni. In Italia c'è un po' il record di questo allargamento, è di 5-6 volte rispetto a 10 anni fa. In 10 anni sono pochi, eppure l'allargamento è stato enorme. Ecco, queste cose qui. Su questo non c'è differenza tra loro. Tant'è vero che, vedete, usano le stesse categorie, per esempio il PIL, che è un concetto che non dice nulla, assolutamente abbandonato anche dagli economisti, e non dice nulla, non serve a niente, nemmeno a dare il quadro, diciamo, dello stato di salute di un'economia, di un paese, ma invece viene usato, non si usano invece altri indicatori, come per esempio l'indice di Gini, che dice, appunto, la diversità tra redditi bassi e redditi alti, ecco, o altri indici di questo tipo. Comunque, questo per dire, insomma, in Italia c'è la tortura, questo ormai è un dato di fatto, ed è parte dal vertice di questo, diciamo, appunto dalla punta dell'iceberg, che è il 41 bis, e discende via via sul resto del carcere. Questo è un po' il quadro. Per cui nel 41 bis la situazione è devastante, questa cosa discende via via nel carcere. La situazione del carcere, il carcere, anche se differenziato in tanti posti, come in Italia, come in America, come un po' dappertutto, ci sono varie gradazioni di carcere, e secondo il tipo di reato per cui una persona è andata in carcere, anche secondo le scelte sulle persone che il giudice o l'amministrazione penitenziaria fa su questo o quel detenuto. Quindi sono molto differenziate le carceri in tutti i paesi, no? Ci stanno quelli a maggior deterrenza, quelli a minore, via via, cioè scendendo. Poiché è una struttura militare unitaria, è militare e è unitaria, queste due caratteristiche non bisogna perdere, quando il punto alto è molto pesante, molto disumano, è chiaro che trascina con sé tutti gli altri. Il fatto che in Italia esiste il 41 bis, così come esiste l'ergastolo, ed esiste ancora di più l'ergastolo ostativo, quello da cui non si esce, tutte le altre condanne per reati invece, diciamo, temporali, 2 anni, 5 anni, 10 anni, 15 anni, vengono trascinate verso l'alto. Questo è un ragionamento che fanno tutti coloro che trattano di questi problemi. Quindi non è un'idea nostra, è un dato di fatto del ragionamento intorno al problema del sistema sanzionatorio. Cioè, il sistema sanzionatorio, che vuol dire quanti anni di condanna danno a uno che ha violato una legge, un certo tipo di legge, ecco, viene trascinato verso l'altro dall'esistenza di queste due. Allora, torniamo al 41 bis. Il 41 bis che cos'è? È un anche questo viene da lontano, viene da lontano perché non è altro che la riattivazione di un circuito di carcere speciale esistente negli anni dal 77 in poi. Nel 1977 c'era quella situazione difficile in questo paese, però difficile di controllo, non riuscivano più a controllare i movimenti di trasformazione sociale, ciò che avveniva nella realtà, quindi i governanti tutti insieme, anche allora, queste grosse modifiche le fanno sempre tutti insieme, è difficile che le faccia un governo che ha metà, che ha una grossa opposizione, no? Perché poi la società non le regge. In genere, quindi, tutti insieme, i primi governi di unità nazionale hanno varato nel 1977 in Italia le carceri speciali. le carceri speciali, dove ci vennero buttati tutti quelli che erano i detenuti più attivi nelle proteste, nell'organizzazione interna, nelle rivolte, nelle evasioni, eccetera. Ovviamente la gran parte di questi erano compagne e compagne, però non solo, c'erano anche appunto detenuti politicizzati in carcere, oppure comunque, anche se non avevano una, come dire, una coscienza politica, però erano molto attivi, erano contro il carcere, realmente contro quel sistema, volevano raggiungere la libertà. Ecco, e rinchiusero circa 2000 persone da un giorno all'altro questo provvedimento. Poi, visto che erano 6, poi sono oscillati da 6, 7, 8 le carceri speciali in questo paese, cambiando casomai di volta in volta, ma insomma c'erano anche qui nelle carceri speciali, dal più duro fino al più mobile, sempre speciali. Speciali voleva dire che tu perdevi tutte quelle che erano le caratteristiche, quelle che volgarmente, ma la parola è completamente sbagliata, però comunque viene usata purtroppo quella parola, i diritti dei detenuti. I detenuti non hanno diritti, a parte, sì, può darsi che sulla carta li abbiano, ma realmente non li hanno. Sta dentro una volontà di imporre, insomma, un certo tipo di detenzione a certe categorie di detenuti. Comunque, quelli che vengono chiamati appunto diritti, cioè, che ne so, è un colloquio settimanale, fatto con la possibilità di abbracciare i familiari, avere i libri in 8 ore d'aria, poter uscire dalla cella per andare a pranzare insieme a quell'altro detenuto, e tutte queste cose venivano a cadere. I colloqui con i vetri divisori, una volta al mese, tutte queste cose, l'aria 2 volte al giorno, oppure addirittura 2 ore al giorno, oppure poi ristretta a 1 ora, e così via. E questa cosa è andata avanti, ristringendo sempre di più la condizione nelle carceri speciali. Questo per combattere quelle che erano tutte le articolazioni dei movimenti rivoluzionari in questo paese, usando appunto la repressione feroce. Finita quella era la stagione, in fondo verso la fine degli anni Ottanta, è finita quella stagione, questi carceri furono in qualche modo, i carceri speciali furono abbandonati, si tornò a una situazione quasi di, come dire, normalità, poco, ma subito dopo, i primi anni 90, esattamente nel 91 e poi perfezionata negli anni successivi, a seguito della cosiddetta allarme criminalità organizzata, in particolare mafia, con gli attentati forti che aveva fatto appunto la mafia siciliana, riprodussero questi carceri speciali, chiamandoli però in un altro modo, perché l'ha cambiata la situazione, perché dovevano far vedere il cambio di passo, eccetera, e iniziò questo discorso del 41 bis, che inizialmente e non potevano fare altrimenti, perché la legge italiana dice che le condizioni di perdita dei diritti cosiddetti non è possibile, cioè non è possibile che tu a una persona, sia anche detenuto, togli i diritti, tu Stato non hai questa possibilità. Allora veniva fatto come 3 mesi per 3 mesi, cioè come fatto di eccezionalità, di emergenza, veniva detto a questo gruppo di detenuti per 3 mesi li mettiamo in condizioni particolarmente dure, 41 bis appunto. Poi dopo 3 mesi vedremo se hanno cambiato atteggiamento. In genere veniva la formulazione, che poi non è vera, è una grossa bugia, però venne il decreto di istituzione 41 bis, disse: in caso di rivolte, pericolo per gli altri detenuti, pericolo della sicurezza, eccetera eccetera, i detenuti che mettono in pericolo questa sicurezza vengono relegati al 41 bis, cioè chiusi in cella praticamente, una sorta di isolamento, in modo che non possano fare quel danno che si sospettava, per un periodo di 3 mesi. Poi, visto questi 3 mesi, i giudici vedono se si è messo sulla retta via, e quindi ritolgo, oppure viene prorogato per altri 3 mesi, ma non più di 2 volte, e solo così lo potevano mettere. Poi questa cosa, da diciamo normale e poi reiterata, è stata ritenuta definitiva. Adesso il 41 bis è una misura definitiva. Questo non è costituzionale, vabbè, quello che vale la Costituzione, lo vedete voi, è carta straccia, chi la tira da una parte, chi la tira dall'altra, non è quello che conta. Poi in un paese, come dicono anche, questa non è che la diciamo noi, la dicono i costituzionalisti seri, quelli seri, in ogni paese esiste una Costituzione materiale, che è quella che si stacca un po' da quella scritta, da quella formale, perché è data dal rapporto di forza, cioè certe cose si fanno, per esempio in Italia non è scritta, anzi la Costituzione vieta di poter governare, fare le leggi, che un governo possa fare delle leggi attraverso i decreti d'urgenza, solo in casi eccezionali. Invece gli ultimi tre governi, quindi non solo questo Renzi ha fatto soltanto decreti d'urgenza, ma anche il precedente ancora il precedente, cioè sono circa 15 anni che si governa con i decreti d'urgenza. È incostituzionale? Formalmente sì, ma cioè, però è così che si governa. Voi pensate gli Stati Uniti d'America, una costituzione vecchia di 200 anni, qualcosa in più, sì, alcune modifiche l'ha avuta, però eppure il rapporto tra cittadini e istituzioni è cambiato di molto, pur non essendo tutto cambiato, non è che è stata cambiata la Costituzione per ogni cambiamento concreto della relazione tra cittadini e istituzioni, appunto prevale la Costituzione materiale, cioè quella fattiva, quella reale. Dunque, chiusa tutto questo capitolo, veniamo a questo discorso qua. Il 41 bis è in questi giorni, quindi da un po' di tempo, siccome è stata ulteriormente peggiorata la condizione delle persone detenute in 41 bis, gli è stato tolto i libri, la possibilità di leggere i libri, visto che non possono fare niente, addirittura nemmeno leggere i libri, vuol dire veramente lì si vuole far scoppiare, come si dice, cioè si vuole mettere in condizione che questi dicano vabbè, addio, mi metto a fare il delatore, mando in galera chi volete, anche quelli che non c'entrano niente, così mi levate da questa condizione, perché è l'unico modo per uscire da quella situazione, è fare il delatore, la spia. Se uno fa la spia e manda fa arrestare altre persone, non ha importanza che siano o non siano realmente responsabili di qualcosa, ecco, fare la spia, fare la delazione è l'unico modo per uscire dal 41 bis. È una cosa un po' vergognosa, molto vergognosa, ha cancellato completamente tutto quello che, certo, d'accordo, nessuno ha mai creduto ai discorsi del diritto, dei diritti e tutte queste cose qui, sono baggianate, purtroppo una parola che viene molto usata a sproposito, la parola diritto e diritti, e qui abbiamo la prova in questi casi, quando si affrontano queste cose, che non contano niente, non è lì il cambiamento della condizione delle persone, sta dentro scelte di governo dovute in genere a un rapporto di forza, scelte economiche, politiche, eccetera. Va bene, allora si sta muovendo un po' gran parte della società, movimenti, non tantissime persone, però sono poche persone, però si muovono abbastanza, e ne abbiamo parlato. C'è una pagina che si chiama Pagine contro la tortura, che è proprio fatta da alcune associazioni per partire dal punto peggiore, cioè che da un paio d'anni è stato tolto anche la possibilità di avere i libri, di avere i libri anche di prenderli dalla biblioteca del carcere, cioè proprio di non possono avere i libri. La scusa è che dentro i libri poi si trasmettono i messaggi, vabbè, basta controllarli, però sapete, vabbè, queste cose si dicono così perché i gonzi ci credano, purtroppo in questo paese i gonzi pare che siano parecchi, ma a parte questo, insomma, la scusa, ecco, questo penso che era inutile dirla, però la diciamo, qualcuno che dice ma la mafia come la combatti? Sicuramente non con la tortura, perché non ha mai risolto nessun problema questo paese, l'Italia, ma anche la Spagna, ma anche tutto, diciamo, tutta l'area cristiana, non solo cattolica ma anche protestante, diciamo europea e anche fuori dell'Europa, ha tutta la grossa esperienza dell'inquisizione, dei processi alle streghe, dei processi per gli eretici o le eretiche. Ebbene, lì la tortura veniva usata a iosa proprio, no? Le peggiori torture, ci sono ancora dei musei qui a Roma che se li andate a vedere vi si accappona la pelle. Bene, e non ha risolto niente, perché sotto torture feroci la persona torturata dice quello che il torturatore vuole che dica. Tu vuoi che dico che è stato quello? Io te lo dico perché non ce la faccio più a sopportare, in modo che si ferma quella sofferenza. Quindi, e non è la verità, ovviamente è il contrario. Tutto quello storto tortura è il contrario della verità. Voi dite, ma perché allora cerca le falsità questo Stato? Perché come deve affermare che combatte la criminalità organizzata, e non che la combatta realmente, perché sennò crolla tutto il baldacchino, le banche, le finanziarie vivono coi soldi dei traffici prevalentemente illegali, prevalente, non è una novità, il traffico di soldi reali, di ricchezza reale che sostiene le banche proviene prevalentemente dal traffico illegale. È così, non è una novità, è quello che fa muovere l'economia in realtà. Quindi non è che vogliono distruggere la criminalità organizzata, vogliono di avere il consenso dei cittadini, dice vedete stiamo combattendo anche facendo cose fuori dalla legge come la tortura, il 41 bis eccetera. Bene, questa è un po' la premessa, poi vediamo appresso dopo questo stacco musicale. Allora torniamo in diretta, 15 e 23, quasi 24, ci dice l'orologio digitale, quindi sarà probabilmente vero. Dunque, diciamo, all'interno di questa campagna che utilizza varie iniziative, è uscito anche un libretto, piccolo ma estremamente significativo e anche abbastanza duro, però va letto secondo me, insomma, anche, è un libretto piccolo, nemmeno 100 pagine. No, 100 pagine esatte, 105, che raccoglie tutte le testimonianze dirette, vere, di coloro che sono passati, soprattutto nel primo, cioè in vari periodi di questi 25 anni di 41 bis, all'interno dei reparti di 41 bis, selezionandone due particolari, diciamo i più infami, questo termine abbastanza diffuso in carcere vuol dire appunto i più feroci, terribili, quello di Pianosa e della Lasinara, due isole, perché inizialmente, così come le carceri speciali, anche i reparti del 41 bis furono dislocati nelle isole. L'idea di quelli che sovrintendono il sistema penitenziario italiano, pensano che l'isola, ma questo anche in America, Alcatraz, ricordate, insomma, sono dislocando in isola il carcere per le persone più pericolose, rende più difficile la fuga. Non è vero, però comunque loro lo credono. Comunque sono sempre, non è che le, diciamo, purtroppo ci sono persone intelligenti anche in quell'ambiente, nell'ambiente del diciamo dei carcerieri, e non è che credono questa cosa qui, però fa effetto, quindi funziona tutto a livello di propaganda, di pubblicità, di spettacolo. Lo sapete, la società spettacolo, ormai siamo in pieno società, qualcuno l'aveva teorizzata una quarantina, cinquantina d'anni fa, siamo in pieno sviluppo della società dello spettacolo. Se una cosa non diventa spettacolo, bella o brutta che sia, non esiste. Questa è un po' diciamo la cifra di questa realtà di oggi. E allora hanno dislocato in queste due, che così come appunto le prime carceri speciali, anche le carceri 41 bis furono dislocate nell'isola di Pianosa, dove c'era stato un carcere speciale feroce che era stato chiuso dopo un massacro spaventoso fatto dalle guardie nei confronti dei detenuti, e quello della Sinara. La Sinara, pure carcere speciale, che fu chiuso dalla rivolta dei detenuti del carcere speciale di Trani, che più che fece una rivolta in cui gli obiettivi erano più che per loro stessi, per i detenuti in quel carcere, chiedevano la chiusura della Sinara, perché era un po' la spada di Damocle che su ogni carcerato nelle carceri speciali gravava, cioè per ogni cosa che facevano il comandante delle guardie o ti dicevano, il direttore, dicevano attento che ti spedisco alla Sinara, quindi era una sorta di, perché lì si stava da schifo. Ecco, la Sinara appunto proprio nella diramazione Fornelli, che è quella appunto più feroce, più dura, dove sono stati dove sono venuti i massacri eccetera. Nell'isola di Pianosa, nel carcere di Pianosa, alla diramazione nelle sezioni Agrippa, anche questa, la sezione Agrippa era quella più feroce eccetera. Quindi i primi due luoghi dove furono portati i detenuti a cui era assegnato il 41 bis furono queste due carceri. E qui i racconti, sono i racconti proprio di alcuni che arrivavano nei primi insediamenti, ed sono cose appunto allucinanti. Persone venivano prese appunto in piena nottata, presi dal loro letto, noi stavamo in altri carceri, non potevano portare appresso nulla, quindi così come stavano in pigiama e ciabatte, e venivano caricati su blindati, poi siccome bisognava andare su un'isola, in genere fecero i trasporti o in elicottero oppure in nave, prevalentemente in elicottero perché si faceva prima, questo pure quando fecero le carceri speciali, i trasferimenti furono i primi, furono fatti in elicottero perché furono queste grandi operazioni, anche queste, utili per dare impasto alla famiglia un po' stupida di questo paese, no? Quelli che si beano della tranquillità e hanno paura di ogni diciamo manomissione della libertà, della tranquillità possa essere un dramma, insomma, quindi queste operazioni spettacolari utili per la televisione vennero portati con gli elicotteri in queste diramazioni, e i racconti sono spaventosi, peggio di Guantanamo, perlomeno da quello che sappiamo di Guantanamo e quello che ci raccontano qui persone che sono sopravvissute, ma a costo veramente di grossi sacrifici, perché non era facile sopravvivere in quelle situazioni, non solo perché ti ammazzavano loro, ma perché poi ti veniva talmente la sofferenza, la devastazione, che ti veniva la voglia di toglierti la vita. È successo a parecchie persone. Dunque, e quindi botte tutti i giorni, tenuti appunto nudi in un posto anche d'inverno, freddi, buttati lì, oppure addirittura c'era uno si racconta di un fatto, una persona che aveva avuto degli incidenti alle gambe, quindi aveva le stampelle per camminare, altrimenti non poteva camminare. Gli tolsero queste stampelle, lo impacchettarono e lo portarono lì. Poi quando doveva andare, e stava in cella sua, fermo, non poteva fare aria, niente, non avendo le stampelle, stava buttato lì sul letto. Quando doveva fare il colloquio con l'avvocato o una volta al mese con i familiari, non gli davano le stampelle per recarsi nella sala colloqui, e quindi doveva strisciare, come si vede nei film, come fanno i Marines, cioè con i gomiti, strisciando per terra per portarsi dalla cella fino alla sala colloqui. Scene allucinanti, come dico, peggio, perlomeno allo stesso livello di Guantanamo. Insomma, il problema è che mentre di Guantanamo ne ha parlato tutto il mondo, e per fortuna, no? Qui di 41 bis non ne parla tutti. Sì, ne parlano, detto, gli organismi internazionali importanti, coloro che si occupano di queste cose, no? Ma l'opinione pubblica, la gente, non ne sa niente qui e non ne sa niente nel resto del mondo. Questa è l'Italia, l'Italia di oggi, quella che viviamo noi. Forse adesso non fanno più quei pestaggi massacranti che facevano nei primi tempi, perché l'idea era quella. Perché poi questa cosa, cioè quando si dice facciamo il carcere duro, che le parole hanno un senso, no? Non per tutti hanno lo stesso senso, quindi questa cosa dovremmo rendercene conto. Questa è una cosa che per esempio gli scrittori credo sappiano bene, perché non tutte le parole hanno lo stesso significato per tutti. Per esempio, penso, una parola per me vuol dire una cosa, io perché ho una certa esperienza, una certa vita, eccetera. Per un'altra persona che sta distante, che ha fatto un'altra esperienza, altre vite, eccetera, può voler dire altre cose. Carcere duro, per il bravo padre di famiglia, così, quello tonto che pensa che vada tutto bene, e carcere duro, dice, vabbè, duro, li fanno, d'altronde è un cattivone, lo fanno un po' così, non gli danno, non è un albergo a 5 stelle, ecco, pensa quello. E quando invece questa parola, carcere duro, va in mano ai secondini, quelli che poi devono tenere, il carcere duro per i secondini significa un carcere dove loro possono fare tutte le angherie che vogliono, tutte le angherie che vogliono nei confronti del detenuto, perché così il potere li copre. Questo è il problema, capite? La parola duro, che poi è una parola che non vuol dire niente, duro è un aggettivo che si usa per, che ne so, un pezzo di ferro può essere più o meno duro, che ne so, si può dire che l'acciaio è più duro dell'alluminio, ecco, ma carcere duro non è, è una parola molto evanescente, e ognuno l'interpreta a modo suo, e i secondini l'hanno interpretata in quel modo lì. Voi leggete queste testimonianze e io ve lo consiglio questo libretto, tra l'altro per averlo anche chi sta in carcere, credo che glielo mandano gratuitamente. Si tratta, il libretto si chiama Le Cayenne Italiane, Cayenne con la Y, perché le Cayenne, famosa Cayenna, no? Il carcere ottocentesco, quelle cose feroci di appunto del lavoro forzato, ci hanno fatto bei film. In America fanno delle cose orribili in carcere, hanno sempre fatte e continuano a farle. Però questo paese è strano, veramente strano, imprevedibile, perché anche le ultime elezioni nessuno l'aveva previste, e in un modo, in un senso o nell'altro, è imprevedibile. Questo ha prodotto appunto delle carceri spaventose. Il sistema peggiore carcerario si è visto in America, negli Stati Uniti d'America, non che so, nei paesi, cioè, sudamericani, dove menano. Sì, menano pure lì, certo, i pestaggi vengono dappertutto, ma sicuramente le situazioni più devastanti per le persone che stanno chiuse in gabbia si sono avute negli Stati Uniti d'America. Per esempio, il modo di carcerazione con cui venivano carcerati i Black Panther, cioè gli esponenti di quel movimento del potere nero, così venne chiamato, no? Quello del Black Panther, e poi eccetera, venivano trattati in una maniera spaventosa. Tra l'altro il carcere americano è completamente diverso dal nostro. Invito tutti e tutte a non fare similitudini tra le due carceri, perché hanno una storia diversa, un'impostazione ideologica diversa, un obiettivo diverso, delle finalità diverse, quindi sono completamente diverse. Per cui, che ne so, per esempio parlare in Italia che il carcere diventa come quello americano è profondamente sbagliato. Non perché sia meglio o peggio, non è quello, diverso. Peggio, ovviamente, difficile che il carcere sia migliore di un altro. Sono tutti brutti, orribili e schifosi e infami, però che sono diversi, diversi come impostazione, diversi come gestione, diversi come obiettivo. Tutti tesi a distruggere l'identità e la personalità della persona detenuta, però con modi e dinamiche, percorsi diversi. Questo è il punto. Dicevo appunto che la Cayenne, no? Su quei famosi. Diciamo, in America, cioè, il carcere è stato sempre brutto, però hanno fatto bei film, ma veramente belli, no? Papillon, ma tanti altri, no? Alcatraz, cioè, in cui registi, persone, quindi, mettevano in luce le nefandezze del carcere americano. E questo l'hanno visto tutto il mondo. In Italia ci fosse stata un film capace di raccontare le bruttezze del carcere, non c'è stato. Nessuno è riuscito a fare un film sulla schifezza delle carceri italiane. Questa è la povertà intellettuale di questo paese, tra le tante. Non, quindi anche qui, che dire, migliore o peggiore l'Italia degli Stati Uniti, non c'è da dire, però lì fanno le cose orribili. Però poi c'è una parte della, chiamatela come volete, intellettualità, cioè, comunque quelli che fanno i film sicuramente e qualcuno glieli paga pure, perché forse perché ci tira fuori i soldi, perché vengono visti, quindi va bene tutto. Però insomma li fanno questi film. Papillon è stato fatto come film, non era una medaglietta per i funzionari, ma anche, che ne so, Nick Manofredda, ecco, quello per esempio fa cappone alla pelle, è uno schiaffo in faccia alla dire a come vengono tenute le carceri negli Stati Uniti d'America, ed è stato fatto e visto in tutto il mondo. Quindi carcere orribile, però così come le guerre tremende l'hanno fatta in America, però film che l'hanno denunciato ci sono state. In Italia c'è questo mertaspa, altro che lotta alla mafia. Qui è purtroppo la cultura che ci, e credo che non è solo delle istituzioni, in particolare delle istituzioni, ma credo che si sia diffusa un po' a tutta la società, purtroppo. Ma questo è un compito nostro, scrollarcela di dosso la mafiosità. Ecco chi c'è, questo che adesso vi racconta dopo di me le storie. Lui dice che è al 100%, in effetti è abbastanza, lo sappiamo, perché per esempio c'è stato un fatto, è successo in questi giorni, visto che parliamo di carcere, in un paesetto vicino Rimini, non ricordo più il nome, un paesetto, un buco. Allora, un prete tranquillo, aveva un'associazione lì che si chiama Papa Giovanni, queste cose qua, in una cooperativa che facevano lavori agricoli tranquillamente. Ha chiamato 7-8 ex che avevano finito tutto, che stavano in pace col mondo e con Dio, se ci fosse, anche se non c'è. Comunque stavano in pace con tutto, e secondo la legge italiana chi ha finito il carcere torna a essere una persona libera. Quindi, però non c'erano lavoro, oggi non trovano lavoro nessuno, figuratevi l'ex detenuto. E questo l'ha chiamato questo prete e ha detto: venite qui in questa cooperativa, si fanno dei lavoretti, casomai produciamo, c'hanno un pezzo di terra, produciamo più cose ortofrutticole, li vendiamo, e quindi due soldi li mettete in tasca. Questi sono arrivati lì, dormivano nei cosi di questa chiesa, di questa parrocchia, lavoravano in campi, questo facevano. La popolazione è insorta, popolazione, quattro straccioni miserabili, perché dice: non vogliamo questa cattiva presenza. Ora io dico, capite, questa non è stata un'istituzione, anzi, si sono messi contro le istituzioni, perché il parroco e il comune hanno dato l'autorizzazione a questi 8 ex detenuti, ex, che non si dovrebbe nemmeno sapere per le famose leggi quando si parla di legalità. Gli imbecilli parlano di legalità, gli imbecilli parlano di diritti. Per favore, smettiamola, usiamo parole comprensibili tra di noi. Diritto va cancellato, legalità va cancellata, perché sono imbrogli per raccontarci le favole. Allora, comunque le leggi italiane dicono che quando uno ha finito la pena non, nemmeno si deve sapere che è stato un ex detenuto o ex detenuta, non si deve sapere, che cosa riguarda lui e la giustizia. Finito, cancellato, torni a essere pulito, questo dice la legge. E invece si sa. Come si fa? Perché poi siamo tutti mafiosi. Ah, ragazzi, siamo tutti mafiosi, noi facciamo i finti tonti. Siamo tutti mafiosi. Anche noi vogliamo fare i pulitini. Insomma, facciamo abbastanza schifo. E la popolazione ha fatto varie proteste perché vuole mandarli via. Questa parentesi per dire la miseria in cui siamo. Comunque, questo libretto, Le Cayenne italiane, ve lo consiglio, a cura di Pasquale De Feo, uno di quei detenuti che ha fatto quel percorso e per fortuna sua, ma con tante diciamo piaghe dentro, ne è uscito vivo. Ci stanno varie testimonianze di poche pagine ciascuna, di 2-3 pagine, di persone che sono passate attraverso il 41 bis. Potete chiederlo scrivendo in questa casella postale, perché all'associazione Liberarsi. L'associazione Liberarsi sta per liberarsi dalla necessità del carcere. È una delle associazioni più antiche a Roma, più vecchie, che si occupa, che è abolizionista, vuole superare le galere, e fa però tante attività contro gli aspetti più infamanti della galera. Quindi consigliato questo libretto. Se voi scrivete all'associazione Liberarsi, casella postale 30, poi l'indirizzo è 500 12 500 12, Grassina, tra parentesi Firenze, perché è in provincia di Firenze, quindi casella postale 30 500 12, Grassina, provincia di Firenze, associazione Liberarsi. Chiedete una copia del Le Cayenne Italiane. Per chi sta fuori, se manda 10 euro, insomma, fa bene anche per questi, stanno e gli mandano questo libro. Se qualcuno è in carcere, probabilmente glielo mandano anche gratis. Ve lo consiglio, lo leggete e poi casomai ne possiamo discutere. Play it like you want. Allora riprendiamo perché siamo quasi in fine. Qui c'è già Vito, appunto, che poi vi allieterà con i problemi del trasporto, della mobilità. Dunque, chiusa questa cosa, quindi chiedete questo libro, leggetelo. Insomma, è un po' duro, d'altronde la realtà è dura, è perché non conoscerla, tapparsi le orecchie e gli occhi. Dunque, vedi, l'altra schifezza che dicevo era quella dei bambini e delle bambine appena nate in carcere con le proprie madri. Questo se ne è parlato. Adesso sì, sui giornali è uscita questa cosa che a Milano, a tutti insieme, comuni, istituzioni, associazioni in PG, hanno fatto questa grossa casa famiglia per accogliere le madri con i detenuti. Ma chi ci andranno? Quelle madri che hanno avuto gli arresti domiciliari, quindi che non hanno casa e vanno lì. Ma il problema non cambia, perché questa cosa è stata fatta anche già, c'è. Quello che non è cambiato è che per alcuni reati, voi sapete, no? I famosi reati, che tutte le leggi fatte che impediscono poi l'accesso alle misure alternative e benefici per alcuni tipi di reati, i reati ostativi cosiddetti, bene, per quelli non sono previsti gli arresti domiciliari, e sono quelle madri che stanno in carcere con i propri bambini. Quindi questa cosa non risolve niente. O si cambia, si tolgono i reati ostativi per alcune persone, in questo caso donne, che poi diventano madri, oppure sono diventate madri nell'iter processuale e hanno un bambino, e quindi non possono soffrire di misure alternative né a casa loro né nella casa famiglia o nelle case d'accoglienza, e quindi devono rimanere in carcere. E per questo abbiamo ancora quei 40-45 bambini e bambine da 0 a 3 anni che stanno nelle carceri italiane. Questa è la vergogna. Ecco, anche qui perché non si vuole affrontare il problema. Il paese in cui infiocchettato di menzogne e di falsità è proprio questo. Ora non so gli altri, non sono uno studioso degli altri paesi, sicuramente fanno schifo anche gli altri, ma questo paese è l'eccellenza per quanto riguarda la falsità. Si dicono queste cose: stiamo facendo qualcosa per togliere, no, non li togliete. Se non si toglie quella legge infame, quelle fatte da 3 governi fa, ma nessuno ha cambiato dal tempo di Berlusconi, eccetera, che sono stati individuati alcuni reati ostativi per le misure alternative e per i benefici, cioè con quel, se uno faceva quei reati lì non poteva accedere negli arresti domiciliari né altre cose del genere, e quindi quelli non potranno, nel caso che siano donne, non possono godere della possibilità di andare col proprio bambino a fare la maternità fuori del carcere, e quindi devono stare dentro, e quindi rimane il problema, e non si schioderà più, mai più, perché non c'è il coraggio, non c'è mai stato in questo paese il coraggio, che ne dicano tutti i raccontatori di canzoni molto stupide su questo terreno, che questo paese abbonda di canzoni stupide. Non c'è mai stato coraggio in questo paese, perlomeno di quelli che, i vincenti, quelli che stanno ancora in sella al cavallo, e quindi questa cosa ancora è un'altra vergogna italiana per niente affrontata. E si reitera, poi faranno un'altra cosa e si va avanti così. Allora, poi un'altra perla, questa è di questi giorni proprio. Allora, sono usciti i dati per la quantità dei reati. Allora, tutti i reati in Italia sono in diminuzione rispetto agli anni precedenti. Molto in diminuzione sono gli omicidi, i tentati omicidi, molto in diminuzione. Anche le rapine a mano armata sono in grossa diminuzione, ma anche le rapine semplici, gli scippi, i furti in appartamento, cioè tutti i reati, tranne lo spaccio di stupefacenti, tutti gli altri reati sono in calo. E su questo la riflessione credo che ciascuno e ciascuna di voi la può fare: perché tutti i reati sono in diminuzione e sono invece in aumento quelli, il traffico di stupefacenti? Ecco, io non dico niente perché ci avete gli strumenti per dare una valutazione di questo. Ma che succede? Quindi sono in diminuzione, per cui uno dice: beh, meno male, probabilmente quindi si potrebbe allentare un po' la pressione delle forze dell'ordine, che invece scorazzano nei quartieri periferici in maniera troppo, visto che sono calati i reati. No, Alfano che ha detto: nonostante che siano in diminuzione i reati, io ho preparato un disegno di legge che verrà presentato al Parlamento, siccome è di provenienza governativa, ha già la maggioranza, quindi probabilmente viene approvato un disegno di legge che aumenta il potere, non solo il numero, il potere delle forze dell'ordine, cioè di poter prendere le persone, interrogarle, portarle. Cioè anche qui salta tutta la garanzia liberale dei 200 anni in cui ci hanno raccontato a scuola un sacco di cazzate che ovviamente non rispondono alla realtà. Quindi aumenta i poteri delle forze di polizia, aumenta esercente i poteri del giudice e che potrà nella fase di sentenza attribuire anche delle misure di particolare detenzione per questi reati cosiddetti di allarme sociale. Anche questa è un'altra parola che non vuoi. Che vuol dire allarme sociale? Per me, per esempio, allarme sociale è quando aumenta la disoccupazione. La gente, i ragazzi, oggi lo dice l'Istat, no? La disoccupazione giovanile è altissima, 42-45%. Quello sì è un allarme sociale, sarebbe da mettersi in moto per far scendere questa fascia di disoccupazione così elevata. Tra uno su due esce. Oppure i livelli di precarizzazione, no? di contratti assurdi fatti un po' a vambra, di lavoro nero, di caporalato. Questo è l'allarme sociale. No. Per loro, per quelli che governano, per le istituzioni, l'allarme sociale è l'aumento della cosiddetta microcriminalità, quella piccola, non quella grande, quella sta bene a tutti, e quindi quella che provoca, dicono, allarme sociale, perché questi signori qua hanno detto che un furto è più grave di una violenza sulla persona, perché mette in discussione la privacy. Cioè io ho 4 giocarelli che ritengo che sia la mia proprietà, quindi mi sento qualcuno perché ho 4 cazzatelle, sono una macchina scarrupata, che ne so, e quindi per quello mi sento ancora. E se mi rubano quella cosa, crolla il mio status sociale. Così si illude che la gente ragioni. Poi in fondo la gente ragiona, perché a forza di dire ste cose in televisione la gente poi ci crede e casca nel trabocchetto. E allora quei reati di allarme sociale vanno colpiti di più. Considerate che in Italia un furto in appartamenti si rischia fino a 10 anni. Un omicidio preterintenzionale si rischia 10 anni. Cioè uccidere una persona, sì, d'accordo, preterintenzionale, cioè che non lo vuole fare, però quella persona muore. Insomma, e rubare 4 cianfrusaglie, più o meno è la stessa cosa. Pensate com'è, che questi sono i valori. Vabbè, va male, questa è una cosa. Quindi tra poco vedremo questo disegno di legge del ministro Alfano per l'aumento dei poteri di polizia e magistratura rispetto ai reati, appunto, di allarme sociale. E qui siamo alle cose. C'è poi lo scandalo, lo scandalo che è scoppiato del fatto che in molte carceri i detenuti si lamentano perché, il mangiare fa schifo, e questo lo sanno tutti, ormai è un refrain dei carcerati, anche perché con 3,50 euro, 3 euro, la cifra oscilla da 3,50 euro al giorno a 3,90 euro al giorno. Con questa cifra bisogna fornire ai detenuti colazione la mattina, pranzo e cena. Ditemi voi, insomma, quindi questo è. Quindi il vitto è scarso e quindi molti fanno la spesa al sopravvitto. Il sopravvitto sarebbe quelle cose che tu puoi acquistare in carcere, e chi vende queste cose, cioè la ditta che ti porta, tu vuoi, insomma, una bottiglia d'olio, un barattolo di pelati, un chilo di pasta, così ti fai la pasta al sugo, almeno una cosa mangiabile e vivibile, e li vende la stessa ditta che fornisce alla cucina del carcere i generi per fare la cucina, per fare i pasti, colazione, pranzo e cena per i detenuti. Queste ditte guadagnano un sacco di soldi, perché si è verificato che questi beni di prima necessità, insomma, che vengono venduti ai carcerati, hanno un prezzo maggiore di quelli che, se potessi uscire dal carcere e vai al supermercato, li trovi. Quindi costano molto di più, quindi hanno dei profitti spaventosi. Quindi i profitti in carcere ci stanno, ci sono sempre stati e ci saranno sempre, però questo è il profitto, non è far lavorare i detenuti, e quella non è una cosa che funziona nelle carceri e non potrà funzionare. Poi abbiamo ancora da Marassi, invece, è uscito questo dato spaventoso, perché c'è stato un ragazzo che si è incazzato, come fai a non incazzarti in carcere, probabilmente avrà avuto anche lì qualche trattamento un po', si è incazzato terribilmente, era un tossicodipendente, loro dicono con problemi psichiatrici, perché te la pioppano sempre a fianco questa cosa, insomma si è incazzato, ha cominciato a dare in escandescenza, grida una guardia, insomma via queste cose qui, è stato picchiato eccetera. A quel punto, allora, il sindaco delle guardie, il Sappe, uno dei più carogni, ma sono tutte carogne, il sindaco autonomo di polizia penitenziaria, dicono che nel carcere di Marassi, uno dei più brutti carceri d'Italia, non che gli altri siano meglio, ma questo è uno dei più brutti. Nell'anno, l'anno questo qui 2016, ci sono state 75 colluttazioni, cioè scontri tra guardie e detenuti, detto 75, 103 azioni di autolesionismo da parte dei detenuti, forse alcune aiutate dalle guardie, però comunque sempre tanti, 44 danneggiamenti alle celle, 3 incendi, 6 tentati suicidi e un suicidio. E dicono che sui 350, quasi 400 sono detenuti a Marassi, almeno 100 sono detenuti malati psichiatrici, cioè è allucinante, uno su quattro, cioè il 25%. Sono cifre pazze. Allora, il fatto è che questi cercano di dire a loro perché vogliono che vengano portati via questi cosiddetti detenuti in cosiddetta malati psichiatrici, vengano portati fuori, quindi ripristinare gli OPG o comunque buttarli in queste REMS che manco funzionano e non si sa come dovrebbero funzionare, insomma, tolti dal carcere. Poi vogliono un aumento dell'organico, un aumento del salario, dei soldi, degli stipendi, ma soprattutto vogliono avere più mano libera per poter fare quello che fanno i secondini. È inutile che ve lo spiego, lo sapete benissimo. E insomma, e quindi comunque, allora, i casi, se veramente fosse vero questo fatto che su uno su quattro detenuti sono malati psichiatrici, vuol dire che il carcere induce una malattia mentale. È ovvio, perché questi sono entrati sani, perché quando si entra in carcere si fa la visita e si entra sani, e poi si diventa, se fosse vera questa, e no, ovviamente non è vera, vuol dire che il carcere, allora, per prima cosa andrebbe veramente chiuso. Un carcere che produce i malati di mente, i malati psichiatrici, è chiaro che andrebbe chiuso, perché altrimenti siamo alla follia totale. Però questa è la situazione. Quindi ancora intanto nel frattempo un detenuto è morto a Caserta, 43 anni, stava dentro per furto, pensate un po', e stava dentro dal 2008 per furto, vedete gli anni che si fanno per un furto, sono 8 anni, ancora 2 anni doveva fare, quindi ha avuto 10 anni per furto, quello che dicevo prima, no? In Italia tra un po' il furto è quella, siccome mette in discussione la proprietà privata, che è il Vangelo di questa società, il Corano è veramente l'indiscutibile di questa società, per un furto si doveva fare 10 anni. E infatti non ce l'ha fatta più, si è suicidato. Questo è un po' il quadro generale. Nel frattempo è uscito un altro libro, questo però un libro, il pregiudizio universale. Il titolo è bello perché c'è tanto pregiudizio nelle galere. Il sottotitolo è ancora più significativo: le catene di classe dietro le sbarre. Che vuol dire? Vuol dire che quello che diciamo dal primo giorno in cui abbiamo aperto questi microfoni, oltre 15 anni fa, il carcere è di classe, cioè in carcere ci vanno quei proletari, quelle persone che provengono dalle classi subalterne, povere, le classi sfruttate, le classi dei lavoratori che perdono lavoro e quindi hanno devono trovare il modo per reperire reddito per altra via. E chi l'ha scritto questo? Luigi Manconi, senatore della Repubblica, e Stefano Anastasia, presidente di Antigone. L'articolo sta sul Manifesto, la presentazione di questo libro. Certo, che cosa dice? Delle cose ovvie, giuste anche, che il carcere, il fatto che la punizione per chi fa una violazione di legge è frutto di un pregiudizio. L'abbiamo vista, quella porcheria di Rimini è tutto pregiudizio. È un pregiudizio che però poi plasma la giustizia reale, non quella scritta sui pezzi di carta, quella reale, quella la costituzione reale, materiale, quella con cui vivono i rapporti tra cittadini e istituzioni. Questo, vabbè, poi ci stanno i dati, ma quelli li sappiamo tutti, li abbiamo raccontati 1000 volte, li ridiremo. È questo così, è uscito questo libro, il Manifesto ne ha parlato ieri, e vabbè, non so se lo potete leggere, credo che per metà è ovvietà, cioè